abbigliamento di Alino, togone da magistrato, parruccone ricavato da lana da materasso e bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. Ci siamo, signore, le 7:20 minuti. Questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Oggi c'è Paolo Corleone in regia, manco l'ho detto. Insieme a Lorenzo Nespoli in redazione. Ah, vi ricordo che settimana prossima invece sarò in ferie, eh? Quindi per una settimana ci sarà Giulia Crivelli a fare la rassegna stampa e a condurre alle 6:30, e poi Oscar Giannino, e poi dopo ritorno dal 19 di giugno fino a fine luglio qui. Allora, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali, caro Paolo, avanti. Oh, non sanno di che parlare i giornali, Siamo arrivati a venerdì 9 giugno e i titoli sono per lo più dedicati alla giornata politica di ieri, il fallimento di fatto dell'accordo sulla legge elettorale. Il Sole 24 Ore affonda la legge elettorale, corre la borsa, spread giù, è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, naufraga l'accordo tra Renzi e Grillo. Repubblica, caos in aula, salta la legge elettorale, Renzi al voto nel 2018, apro a Pisapia. Per il Fatto Quotidiano, Renzi si impicca al Trentino, legge morta, Mattarella nessun decreto. La Stampa, addio legge elettorale, rebus voto. Il Messaggero, salta l'accordo, caos Camera, il Quirinale è preoccupato. La sintesi efficace è di Avvenire, voto scaccia voto. Con il voto sulla legge elettorale si scaccia il voto in autunno. Libero, non voterà più nessuno. Il Giornale, i franchi traditori invece che tiratori. Per il Giorno, addio alle urne. Oh, ragazzi, vi rendete conto? Io non so se vi rendete conto, andrebbero fatte queste carrellate di titoli con la settimana scorsa. Si vota in autunno, settimana decisiva. Quante volte l'abbiamo sentito? Nei titoli anche. Vabbè. Per la verità, il bullo le prende un'altra volta, il bullo è Renzi. A piccola legge elettorale, anche il titolo del Secolo XIX. Il Manifesto è l'unico che ha Tory infuriati, e cioè sui Tories e i conservatori britannici che non hanno una maggioranza con Theresa May, e dunque uno sguardo internazionale per il Manifesto, e si parla di Gran Bretagna. Comunque, vedremo tra poco, l'ultima perla politica sulla legge elettorale. Intanto voglio partire da qualche notizia di cronaca, cominciare dal fatto che dopo qualche giorno dei fatti di Piazza San Carlo a Torino, il prefetto Saccone a Torino è il primo di fatto che chiede scusa. Rilascia un'intervista alla Stampa, intervistato da Giuseppe Bottero. Chiedo scusa perché non ho previsto il pericolo dall'interno della piazza. E dice il prefetto, un conto sugli accertamenti della procura, altro è la verifica di ciò che non è andato per il verso giusto. Io sono il responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica e quindi rientro tra le persone che devono chiedere scusa. Però guardando al futuro e imparando da questa lezione così dura. In questo momento non si sa cosa abbia innescato il panico, alla base c'è un non fatto che rende tutto ancora più difficile da prevedere e da gestire. Però almeno, insomma, registriamo queste scuse. Il 3 giugno, dice il prefetto di Torino, è uno spartiacque. C'è un prima e un dopo per Torino, ma anche per l'Italia. Lo dimostra la direttiva che ha appena inviato il capo della polizia, Gabrielli. Il compito di stabilire le responsabilità eventuali tocca la magistratura, ma noi, seguendo lo standard sulla tutela di un luogo aperto che si è affinato sempre più negli ultimi mesi, avevamo messo in campo un'attenta attività preparatoria, un passaggio in comitato tecnico, un sopralluogo della commissione vigilanza, un piano di emergenza, uno sanitario validato. Tutto questo si è rivelato assolutamente insufficiente. C'è la domanda al prefetto Renato Saccone sulla questione del vetro, cioè com'è possibile che non siano stati fermati gli abusivi e ci fosse tutti quei cocci di bottiglia, quel tappeto di vetro sulla piazza. Qui la risposta è un po' inquietante. C'era un pubblico compatto, omogeneo, giovane, abituato agli eventi. questo non ha fatto scattare il ragionamento sul vetro, che tendenzialmente viene collegato alla possibilità di scontri o di fazioni quando le bottiglie diventano un possibile strumento offensivo. Ma questo ragionamento non regge più. Almeno il prefetto se ne rende conto, cioè a dire, siccome erano tutti tifosi della Juve, un gruppo giovane, questo non dovrebbe deporre molto a favore, comunque abituato agli eventi, allora non si è pensato che si potessero utilizzare in maniera impropria le bottiglie, che infatti non sono state usate per scontri, ma se tu dai una bottiglia di vetro, uno che fa della bottiglia, come minimo per distrazione, ti cade per terra e diventano cocci di bottiglia, figurarsi dopo i gol. Vabbè. Il prefetto di Torino, intervistato dalla stampa, chiede scusa. Voglio invece saltare sul Corriere della Sera e voglio segnalare questa pagina d'inchiesta, che è un gran classico, almeno questo a giudicare, non è pessimismo questo, ma a giudicare dalle segnalazioni che mi arrivano anche quotidianamente in redazione, un gran classico dell'Italia, i concorsi truccati. Pagina 23 del Corriere della Sera c'è un'inchiesta di Antonio Castaldo, Antonio Crispino e Amalia De Simone. Raccontano dei sospetti sui test per l'ingresso nell'esercito e nelle forze dell'ordine. Tra il 2015 e il 2016 sono state aperte 9 indagini in 3 procure e c'è la pista di una talpa negli uffici del Ministero dell'Interno. Da dove si è partiti? Dal fatto che in centinaia di test non è stato trovato neanche un errore. 80 domande, altrettante risposte esatte. Bravi, uno dice, complimenti, test superato col punteggio del 100%. Non capita spesso, eh? Il 13 maggio 2016, concorso per 559 allievi agenti di polizia. In 194 hanno risposto così, perfetto. In 134 hanno sbagliato un solo quiz, 93 soltanto 2. Risultati eccezionali, considerando che si trattava di test a risposta chiusa. Quando poi si è saputo che tutti i geni provenivano quasi tutti dalla Campania e che in particolare quasi tutti da Aversa, sono cominciati i sospetti e poi le indagini. E lo scorso dicembre il capo della polizia Gabrielli ha annullato il concorso, che ora è ripartito con una nuova commissione e risultati molto più umani. Si parte da qui per raccontare nel dettaglio come vengono truccati i concorsi, come le indagini vanno avanti, forse c'è una talpa appunto al Ministero dell'Interno, come purtroppo per molti giovani la divisa è una sorta di ammortizzatore sociale, cioè un modo per trovare un posto di lavoro che altrimenti non si trova. Questo fa capire anche poi eventualmente la vera motivazione con cui queste persone indossano la divisa. E ovviamente c'è un vero e proprio mercato della spintarella legato proprio alla crisi occupazionale. Leggete questa pagina sul Corriere della Sera, pagina 23, perché è molto illuminante di tante cose dell'Italia. Oh, invece, signori, devo fare un plauso a Don Lorenzo Nanni, sacerdote, 49 anni, che si trovava in casa della madre a Borgo Fornari, frazione di Ronco in Valle Scrivia. Racconta tutto Tommaso Fregatti sul Secolo XIX, pagina 12. Si ritrova in casa tre ladri. E che fa Don Lorenzo Nanni? Lo dice lui stesso. Non ho porto l'altra guancia. Li ho affrontati a mani nude e a pugni a cazzotti. Li ho cacciati da casa. Tutti e tre. Trova i ladri in casa, Don Nanni non porge l'altra guancia. Subito non ci ho più visto, ora però dice lì perdono. Per una volta però non ho seguito alla lettera l'insegnamento di Gesù. Quando ho visto i tre ladri che mi rovistavano i cassetti di casa, ho avuto una tale scarica di adrenalina che ho perso la testa. Li ho messi in fuga a mani nude. Ora però, per farmi perdonare, celebro subito una santa messa per loro. Vabbè, molto cristiano Don Lorenzo, che racconta di questa vicissitudine con tre trovati nella casa della mamma, cappellini in testa, fazzoletti neri per coprire il viso, aprivano mobile, cassetti, non ci ho più visto, e quando hanno capito è partita una rissa, ma ho avuto la meglio, tanto che, dice Don Nanni, mi sono fatto medicare in ospedale solo per motivi legali. Ma non credo di essere uscito molto male da questo scontro. Peggio loro. Beh, in tre round Don Nanni li ha messi KO. E va bene, trovate sul secolo XIX. Mentre siamo all'articolo che più mi fa incazzare della giornata, è l'articolo da mani sul volante se siete alla guida. Allora, la vicenda, come al solito, è una vicenda poi drammatica che porta alla luce queste indagini. La vicenda drammatica è quella della morte di Maria Carmela De Muro, 57 anni, di Cagliari, che voleva vincere la sclerosi multipla con una dieta ed è morta per un digiuno intensivo, pare 3 settimane solo ad acqua. Tutto consigliato, secondo le accuse, da Massimo Melelli Roia, medico, il medico indagato per la dieta killer. Col digiuno curo sclerosi e tumori. Pagina 12 e 13 del Giorno. Non siamo stregoni, i miracoli non sono la nostra professione, parola di Massimo Melelli Roia. Studio perugino pieno di pazienti che arrivano da tutta Italia. Ecco, io lo dico sempre, come nell'ultimo caso che abbiamo affrontato quando ne parlavano i giornali, del bambino poverino di 7 anni morto per l'otite. Non guardate alla questione, non guardate al dito, no? La questione del medico, io guardo alla luna. Lo studio pieno di gente, pieno di pazienti da tutta Italia, per un medico indagato ora per la morte di questa 57enne che per 21 giorni aveva bevuto solo 3 litri di acqua al giorno. Così pensava di sconfiggere la sclerosi multipla. E questo medico, che ora si è chiuso in un ostinato silenzio almeno fino a dopo l'autopsia, predica da tempo i prodigi della dieta forzata per curare gravi patologie come la SLA, i tumori, l'artrite reumatoide. Ecco, ora sotto tiro, scrive il Giorno, il risultato è questo. E la vicenda soprattutto che colpisce è questa frase: lo studio pieno di pazienti. Eccolo qua, il medico indagato per la dieta killer. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Ma se ci pensi, mo l'Alessandro Milan è un po' la legge elettorale dell'informazione, beh. Fai il bravo, caro ascoltatore, che ho picchiato per molto meno, eh. Ho picchiato per molto meno, come Don Nanni. Pa, pa, pa, pa. E via, destro, sinistro, jab e a casa i ladri. Ale, allora, la legge elettorale. Eccoci qua. Signori, si chiude oggi la 25esima settimana decisiva per la modifica della legge elettorale. Era la settimana decisiva. È finita male. Chissà, la 26esima settimana decisiva potrebbe essere quella decisiva. Attendiamo con ansia, io attenderò con molta ansia dalla mia settimana di vacanze questa comunicazioni, fibrillazioni, vibrazioni su quello che è invece un patto che al momento è saltato. Barbara Fiammeri, Emilia Patta, sul Sole 24 Ore, a pagina 5. La legge elettorale è morta. A decretarne il decesso il relatore Emanuele Fiano, deputato PD, subito dopo l'approvazione di un emendamento presentato da Biancofiore di Forza Italia, che estende il Tedeschellum al Trentino Alto Adige. Un emendamento passato grazie ai voti del Movimento 5 Stelle, ma anche di molti franchi tiratori del PD e non solo. Finisce così, al secondo giorno di votazioni, il cammino della legge elettorale e soprattutto il patto a 4 tra PD, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. In transatlantico non tutte le facce sono funeree, anzi. L'interpretazione che va per la maggiore è che con il naufragio del patto salta la prospettiva di elezioni anticipate a settembre e dunque si può rimanere in Parlamento per altri 8 mesi. Alla stessa conclusione arriva anche la borsa, che fa un balzo in avanti parallelamente alla diminuzione dello spread. Per i piccoli partiti, dai centristi di Alfano ai bersaniani di MDP, è l'ora della rivincita. Per PD e Movimento 5 Stelle, quello della resa dei conti. E la resa dei conti si vede, tutti che accusano tutto. Tra l'altro, in questa giornata in cui c'è stata questo psicodramma, l'ennesimo psicodramma sulla legge elettorale, c'è stata anche una burletta, una sorta di farsa, perché il voto era segreto. Se lo chiedono almeno 30 deputati, il voto deve essere segreto. E il voto su questo emendamento presentato da Biancofiore era segreto. Ma poi che succede? Come si è ricostruito? Che la presidente Laura Boldrini non lo ricorda un attimo prima della votazione, e allora il commesso, addetto funzionario della Camera, addetto al tabellone, si sbaglia e non mette la votazione segreta, e quindi per una venticinquina di secondi la votazione è pubblica e si vedono i voti. E allora che cosa si vede? Si vede che quelli del Movimento 5 Stelle per la maggior parte hanno votato sì, come avevano detto, voteremo sì all'emendamento, però l'accusa del PD è che in realtà alcuni del gruppo 5 Stelle, secondo il PD, avrebbero pigiato il tasto rosso per salvare il patto, e quindi il no. Mentre il Movimento 5 Stelle la maggior parte votano sì. Mentre molti del Partito Democratico effettivamente sono i cosiddetti franchi tiratori, cioè votano, hanno votato sì, facendo dunque saltare il patto. È tutto visibile, ma il voto era segreto. E vabbè, è successa questa cosa. E Fiano, il relatore di questa legge, ha anche ottenuto la foto di questo voto, e ora la foto è pubblicata sui giornali, cioè del tabellone che ha mostrato i sì e no all'emendamento. Fiano, che parla al Corriere della Sera, intervistato da Monica Guerzoni, dice: è stata un'imboscata studiata. Ci sono voti anomali nella mia foto, quelli del nostro partito sono pochi. Questo è il Corriere della Sera. E poi ecco il rimpallo di responsabilità: siete stati voi avete fatto saltare il patto, no voi. Renzi e Berlusconi invece pubblicamente non hanno fatto queste accuse reciproche, ma si sono sentiti al telefono. Tutti raccontano di questa telefonata sui giornali, ci sono dettagli che escono un po' di qua e un po' di là. Racconta Ugo Magri e Fabio Martini raccontano sulla Stampa, pagina 3, questo è il titolo: Renzi confessa in questa telefonata a Berlusconi: non controllo nemmeno i miei nel mio partito. Il leader del PD sferza i suoi colonnelli, soprattutto Orfini, Rosato e Guerini. Secondo la narrazione del Cavaliere, in questa telefonata Renzi indica questi tre nomi, Orfini, Rosato, Guerini, dicendo: guarda, caro Silvio, nel mio partito in tanti erano contrari a quel tipo di riforma. Come dire, non controllo neanche i miei. Mentre Berlusconi rilascia un'intervista al Sole 24 Ore, intervistato da Barbara Fiammeri, dopo Salvini che parla di ricette economiche. Ecco Berlusconi che doveva dare le sue ricette economiche, ma a questo punto le ricette economiche sono un po' superate dalla situazione politica, la giornata di ieri, tanto che Barbara Fiammeri dice: scusi presidente, ma Emanuele Fiano ha detto che la legge elettorale è morta, lei sta parlando ancora di accordo? E risponde Berlusconi: spero che prevalga il senso di responsabilità verso le istituzioni e gli italiani. Un incidente parlamentare, per quanto deplorevole, su un emendamento che peraltro Forza Italia non condivide, non può giustificare il fallimento di una riforma che rappresentava un punto di equilibrio accettabile. Dunque un Berlusconi che spera ancora di rimettere in carreggiata questa vicenda. Poi parla dell'Italia, dice: l'Italia la amo, ma l'Italia di oggi non mi piace, ha problemi enormi da affrontare, per esempio la povertà, che riguarda poco meno di 15 milioni di italiani, fra cui 4 milioni e 600 mila in condizioni di povertà assoluta, la disoccupazione cresciuta di 1 milione di unità. E qui partono le ricette economiche, tra queste no a patrimoniali, no all'aumento dell'IVA, flat tax al 23%. Queste sono le proposte in estrema sintesi dell'intervista a Silvio Berlusconi, che trovate intervistato da Barbara Fiammeri a pagina 4 del Sole 24 Ore. Si vota e non si capisce più. Cioè si vota, prima o poi si voterà, state sereni. Ops. Cioè nel senso, si voterà. Si voterà quando? In autunno? Si voterà a fine legislatura 2018? Ah, qui ci sono anche qui articoli contrastanti, perché secondo il retroscena di Tommaso Ciriaco, a pagina 3 di Repubblica, c'è un addio di Renzi al voto anticipato. Basta, pare che Renzi abbia chiamato i suoi dicendo: d'ora in poi non dobbiamo neanche più parlare di legge elettorale, d'ora in poi ci occuperemo di economia e di lotta alla povertà, senza parlare di legge elettorale. Poi telefona appunto a Berlusconi, organizza con Gianni Letta questa telefonata, dice la colpa è tutta di Grillo, e dà la colpa a Grillo e dice non si vota più, basta, addio alle elezioni anticipate. Poi uno salta sul Messaggero, Marco Conti, pagina 7, Renzi vede Gentiloni e dice così non si va avanti, bisogna andare a votare, così non si riesce ad arrivare alla fine della legislatura. E poi telefona anche a Mattarella, capo dello Stato, e a Silvio Berlusconi che lo attacca: tu non chiudi mai un'intesa, Grillo, che Renzi che attacca, ma è colpa di Grillo. Cioè, signori, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Ditemi voi che cosa vi devo dire. Vi dico l'unica certezza che c'è a quest'ora. Traffico! Alessandro Milan, il Bob Marley dell'informazione. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Signori, questa è una di quelle che mi piace di più come rientro, eh? Al 349-238-6666 potete mandarlo via WhatsApp in grande qualità. It's a thought that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on. Get up, stand up. Stand up for your right. Vabbè, dobbiamo tornare alle cose di questo mondo. Per esempio, le elezioni in Gran Bretagna. Dai, le elezioni nel Regno Unito, si è votato per la terza volta in 3 anni, eh? Poi si dice anche in Italia si va a votare spesso. In 3 anni nel Regno Unito hanno votato 3 volte e tra l'altro queste sono elezioni che, come ricorderete, forse ha chiesto la Premier Theresa May, dicendo, anche facendo una grande scommessa per un governo che deve gestire la questione della Brexit, ci vuole una legittimazione forte, quindi chiamo elezioni anticipate, una gran bella scommessa. È una scommessa che però Theresa May rischia seriamente di perdere. Sicuramente la situazione è che adesso c'è un Parlamento senza una maggioranza o con una maggioranza difficile da comporre. E quindi non guardiamo solo all'Italia per capire situazioni in cui c'è incertezza. Certo, non voglio fare paragoni. Ecco, qui però si è creata anche una situazione per cui Theresa May aveva una larghissima maggioranza nelle previsioni fino a poco fa e praticamente ha perso tutto, ha dilapidato una serie di voti a vantaggio invece dei laburisti, di Jeremy Corbyn. Conservatori puniti negli exit poll, la Premier è senza maggioranza. Questo per esempio è il titolo di pagina 10 del Corriere della Sera. I Tories sono in avanti ma in calo. Comunque parleremo tra poco con gli ultimi dettagli di questo, dopo il giornale radio delle 8, sentite anche il giornale radio, e poi approfondiremo con Cristina Marconi da Londra per cercare di capire se ora Theresa May si trovi o meno in una serie di difficoltà politiche non indifferenti. Qualche difficoltà ce l'ha anche Donald Trump. Era attesa la testimonianza dell'ex direttore dell'FBI James Comey, che ha prestato giuramento e ha parlato di fronte alla Commissione Intelligence del Senato sulla vicenda del Russia Gate. James Comey, che è stato licenziato in tronco da Trump, accusa il presidente americano di avere mentito, e questo per gli Stati Uniti è un'accusa gravissima, a rischio impeachment. Certo, andrà tutto dimostrato prima, perché l'ex capo dell'FBI dice: capii che voleva che io lasciassi cadere l'indagine sul suo consigliere Flynn. Però capii che voleva lasciarsi cadere è un po' sfumato rispetto a quello che aveva fatto trapelare sui giornali: mi ha detto di lasciar cadere le indagini. E infatti, secondo Avvenire, per esempio, secondo Elena Molinari, dopo questa testimonianza, Trump è un po' soddisfatto della conferma di non essere indagato. Certo, la situazione non è facilissima, è un pochino complicata per lui, perché c'è l'ex capo dell'FBI che dice Trump è un bugiardo e ho diffuso io le notizie su di lui. L'avvocato però di Trump risponde: ora va indagato lui, James Comey. Insomma, sono colpi molto duri dal punto di vista verbale che si danno l'ex capo dell'FBI e Donald Trump. Bisognerà vedere chi ha ragione, bisognerà vedere come queste accuse si potranno in qualche modo tramutare. Tornando alle cose italiane, no, prima una questione sempre dal mondo straniero, dall'estero, una notizia dalla Cina che è raccontata dal Corriere della Sera da Paolo Salom a pagina 17. In Cina basta, tornano alla filosofia di uno solo per famiglia, ma non i bambini, i cani, o meglio gli animali. Sta per passare una legge, basta con l'anarchia, è l'ora del cane unico. Una legge vieterà ai cittadini in Cina di possedere più di un animale alla volta. Banditi poi i pastori tedeschi e i levrieri. Non chiedetemi il perché, è spiegato nell'articolo del Corriere della Sera, ce l'hanno con i pastori tedeschi e i levrieri in Cina. Già nella città di Qingdao in Cina si è deciso di limitare il possesso di un solo cane ed è stato pubblicato l'elenco di 40 razze vietate perché pericolose. Ecco, pericolosi. Il cane lupo è considerato pericoloso, il levriero pure pericoloso. Comunque arriva il cane unico in Cina. Mentre vi segnalo l'ennesima scivolata sui vaccini di un esponente del Movimento 5 Stelle. In questo caso si tratta di Carlo Sibilia, parlamentare, che su Facebook ha postato un'accusa, che è l'accusa più classica che si fa in questi casi: sei pagato da Big Pharma. Non a me, neanche Paolo Corleone, neanche Lorenzo Nespoli. Lorenzo Nespoli, per esempio, che è qui che mi riprende in video per la pagina Facebook mia pubblica, vorrebbe tantissimo essere pagato da Big Pharma, così a prescindere, insomma, arriva alla fine del mese. Anche Paolo Corleone ha detto, mi fa un gesto chiaro, vabbè, mi iscrivo anch'io, vorremmo tutti e tre essere pagati da Big Pharma, così poi parliamo male di Big Pharma, però se ci pagano e ci danno un po' di soldi, voglio dire, seguirà IBAN. Comunque, lo scivolone di Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle, che ha scritto su Facebook: il vaccino obbligatorio immediato doveva essere quello contro la follia del ministro della salute Lorenzin. E vabbè, questo è un attacco politico. Ma poi ha aggiunto: chissà se un giorno verremo a sapere quanti Rolex ha ricevuto il ministro per scrivere questo decreto irricevibile. E la Lorenzin replica: lo querelo. E va bene, la vicenda vaccini finisce così. Dai, siamo alla carta costa, articolo più inutile scolato sui giornali. In Cina fanno la legge sul cane unico. A Libero invece fanno una pagina Ilaria Pedrali per raccontare se il gatto va in ufficio, come avviene in Giappone. Quindi in Cina cane unico, in Giappone il gatto in ufficio. Ci sono delle foto dei gatti, come i gatti di Oscar che andavano sempre in ufficio. Io li vorrei, 5 gatti di Oscar. Qui li interrogherei sulla legge elettorale. Dimmi un po', tu, Lulu, Lolo, Lola, Ragù, Artù, dimmi, sei per il proporzionale o per il voto secco, disgiunto, il listino delle preferenze, il tedeschellum o che cosa? Ragù, parla! Parla! Vabbè, se il gatto va in ufficio! Ma chi se ne frega!